Mica cotica. La teoria dell'asfalto funziona in confronto con quella dei pannolini nel Tevere. I tre elicotteri ronzano intorno a quella caccona di cavallo maresciallo carabiniere. Anche la moglie del figlio del presidente ci cade dentro, perdendo l'anello nuziale. Mica male per una cacca derubare al familiare del presidente. Punto esclamativo. Cacotica. Cacotica. Mica cotica.